Modena, 29 novembre 92. Il matrimonio come sogno. La Chiesa ha accettato volentieri la proposta di Vincenzo e Gina di festeggiare il loro matrimonio. Perché questo invito? Perché nel loro matrimonio è successo qualcosa di importante, anzi senza usare una parola fuori luogo, qualcosa di divino. Un giorno Gina ha fatto un incontro molto particolare. Ha conosciuto Gesù e ha creduto in lui quale suo Salvatore e Signore, e gli ha affidato la sua vita. Gli ha promesso che avrebbe sempre vissuto secondo la sua volontà. Passano gli anni e Gina fa un'altra esperienza. Conosce un bel ragazzo, le piace, si innamora e il suo cuore è tutto per lui anche se egli era ateo. Dimenticando il patto che aveva fatto con il suo Salvatore, lo sposa. Ma perché un matrimonio abbia qualche possibilità di riuscita, si devono tenere presente le tre componenti della natura umana: corpo, anima, spirito. Se il matrimonio è fatto perché due corpi sono da scoprire, l'unione coniugale è fragile perché non ci vuole molto per conoscere un corpo. Se il matrimonio è basato sull'emotività, la vita coniugale è in serio pericolo, perché la nostra emotività è instabile. Il matrimonio invece ha anche una componente spirituale, ha buone possibilità di durare perché lo spirito non è limitato. Allora, mi chiederete, come mai i matrimoni nei quali sono presenti tutte e tre le componenti anzidette non funzionano, mentre matrimoni a sole due componenti funzionano? Perché un matrimonio può reggere anche con sole due componenti, e questo quando a volte gli sposi hanno gli stessi interessi egoistici che si incontrano, dando così l'impressione o l'illusione di amore, di armonia coniugale. Mi spiego. Se ambedue gli sposi danno la precedenza agli interessi comuni, vanno d'accordo perché in questo modo si incontrano. Sembra assurdo, ma anche l'odio può unire. Nei Vangeli leggiamo che Erode e Pilato divennero amici quando dovettero giudicare Gesù, mentre in precedenza si detestavano. Luca 23, 12. Esistono però anche persone che hanno buon senso e sanno mantenere l'armonia nella vita matrimoniale, ma se due sposi sono uniti nello spirito e non nella componente umana, allora il matrimonio può fallire. L'essere cristiani non è una garanzia assoluta per un matrimonio riuscito. Occorrono altre componenti quali la cultura, l'istruzione e la buona educazione. Ma torniamo a Vincenzo e Gina. Un giorno Vincenzo fece anche lui un incontro con Gesù e prese la stessa decisione che Gina aveva già preso. Con una componente in più il loro matrimonio si è rinnovato. Per questa ragione oggi vogliono festeggiare il loro matrimonio perché ora hanno tutte le carte in regola per avere un matrimonio felice. Ho detto che ne hanno la possibilità ma non la garanzia. Hanno conseguito la patente ma non è detto che sappiano sempre percorrere le strade giuste. Rallegriamoci quindi con gli sposi per quello che Dio ha fatto nella sua misericordia. La volontà di Dio è che ogni cristiano si sposi con quelli che appartengono alla famiglia di Dio. Vi sono giovani che vogliono evangelizzare sposando un figlio del diavolo, ma la nostra chiamata non è di evangelizzare mediante il matrimonio, ma facendo la volontà di Dio. La nostra vita testimonia molto di più efficacemente delle parole. Oggi il matrimonio è sempre più in crisi e le ragioni sono tante. Vorrei considerarne una, che è forse la più comune, il sogno. Dobbiamo prendere atto che ci sono sposi che sono rimasti delusi del loro coniuge, perché si erano illusi sul loro conto, ma l'errore fondamentale di molti giovani è di sposarsi in tre: lui, lei e il loro sogno. Bisogna accettare la realtà, per quanto il fidanzamento sia intimo e lungo, non rivelerà mai giustamente com'è il partner. Una cosa che bisogna ripetere fino alla nausea è che noi sposiamo delle persone e non il nostro ideale. Il matrimonio basato sulla realtà comporta un divorzio dal proprio sogno. Se abbiamo sposato il nostro sogno, non dobbiamo incolpare il nostro coniuge di essersi rivelato diverso dalle nostre aspettative.

e la felicità di condividere la vita insieme. Il nostro bisogno più impellente come coniugi è di ricevere dalla scrittura quelle certezze radicate che hanno il potere di agire sulla realtà. Se il tuo matrimonio è in crisi, molto probabilmente non hai divorziato dai tuoi sogni e non hai accettato da parte di Dio che i difetti del tuo coniuge siano indispensabili per la tua crescita e il tuo bene. Lasciati condizionare dalla parola di Dio, sii riconoscente a Dio e al tuo coniuge per tutto. Se lo fai con un atto di razionalità, hai tutto da guadagnare. Se lo fai con fede, sarai gradito a Dio e otterrai dei premi impensabili. Ebrei 11, 6. Prega Gesù Cristo con le parole di Davide e scoprirai che il tuo matrimonio verrà rinvigorito. Ora, o Signore, Dio, tu sei Dio, le tue parole sono verità e hai promesso questo bene al tuo servo. Piacciati dunque benedire ora la casa del tuo servo, perché essa sia sempre davanti a te. Poiché tu, o Signore Dio, sei colui che ha parlato, e per la tua benedizione la casa del tuo servo sarà benedetta per sempre. 2 Samuele 7, 28-29. Novembre 1992. Ellero.